Allora, intanto do il benvenuto a tutti, ma soprattutto do il benvenuto ai nostri ospiti questa sera. È l'ultimo incontro della serie che abbiamo inaugurato in marzo, che porta il titolo Ambiente, Mercati e Comunità, un ciclo di incontri concepito e voluto appunto anche dalla Biblioteca Provinciale, ma soprattutto dal professor Andrea Bonoldi, che è qui presente questa sera e che ci accompagna nella presentazione del lavoro di Nicola Gabellieri, che lavora presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, e questa sera ci parlerà di Sta natura ognor verde, punto interrogativo, è una geografia storica del patrimonio bioculturale e gestione delle risorse ambientali in area alpina fra il XVIII e il XXI secolo. Questo ciclo di incontri è udibile e riascoltabile anche attraverso il nostro sito. Alla voce podcast troverete anche gli incontri precedenti. Ricordo quello dell'11 marzo, la storia economica, sociale e ambientale delle Alpi, percorsi di ricerca a cura di Andrea Bonoldi del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento. L'incontro del 25 marzo, Boschi e società nelle Alpi, il caso della Valle di Fiemme nell'Ottocento, con Katia Occhi dell'Istituto degli Studi Italo-Germanici di Trento e Lucia Tedesco, sempre dell'ISIG. E poi un modo diverso di possedere i domini collettivi in area alpina fra passato e futuro. Abbiamo avuto in questa occasione l'ospite Christian Zendri della Facoltà di Giurisprudenza di Trento e Giovanni Zagnol del Dipartimento di Economia e Management, sempre dell'Università di Trento. Questa sera appunto salutiamo e ringraziamo di nuovo Andrea Bonoldi, ma soprattutto Nicola Gabellieri, che ci accompagnerà appunto in questo percorso di geografia storica attraverso il XVIII e il XXI secolo. E appena sarà possibile la prossima settimana manderemo una newsletter con tutti i link per riascoltare e promuovere anche questa splendida occasione, che purtroppo coincide forse con delle giornate di vacanze e di tanti appuntamenti, ecco. Ma per non smentirci siamo sempre pronti anche per rendere accessibile le nostre iniziative anche in maniera diversa. Grazie, e grazie a voi tutti. Bene, grazie Valeria per l'introduzione, grazie per la collaborazione che stiamo portando avanti da un po' di tempo, insomma, questa collaborazione fra chi fa ricerca storica sul territorio e questa biblioteca che promuove in maniera così importante, oltre alla conservazione del patrimonio librario archivistico, anche appunto la diffusione dei risultati della ricerca storica, che è poi il senso di questo ciclo di appuntamenti. E mi fa piacere oggi potervi presentare qui Nicola Gabellieri, che è, allora, siamo nella stessa università, ma non è che l'Università di Trento tutti si vestono con la giacca blu e la camicia a righe bianche e blu, è un caso. È un caso che oggi le cose siano così. Nicola è professore associato di geografia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, e i suoi interessi di ricerca comprendono la geografia storica, l'ecologia storica e l'utilizzo dei sistemi informativi geografici per lo studio della storia dei paesaggi e dei territori. È membro del comitato direttivo del Centro Geocartografico di Studio e Documentazione di GECO di Rovereto, e segretario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici e fiduciario della Società Geografica Italiana per le Province Autonome di Trento e Bolzano. Quindi Nicola fa parte della generazione più giovane, diciamo, dei ricercatori, però come vedete, insomma, già un'attività decisamente ricca. Attualmente coordinatore del progetto di ricerca di rilevanza nazionale PRIN 2022 Bridging Geography and History of Woodlands e vice coordinatore del progetto di ricerca di rilevanza nazionale Envisioning Landscapes. Ha collaborato con molte università anche straniere, quella di Nottingham, di Sheffield, l'Istituto Catalano di Archeologia Classica, autore di diverse monografie, un paio delle quali sono in uscita adesso anche, tra l'altro, ecco, in tempi prossimi. Bene, no, io sono contento che Nicola sia qui con noi oggi, perché questo aggiunge uno sguardo diverso a quelli che abbiamo presentato fino adesso. Allora, chi ha partecipato agli incontri sa, anzi vi ringrazio di essere qui oggi, pubblico non particolarmente numeroso, ma qualificato, come si suol dire, in una giornata di sole in mezzo a due ponti, insomma, non è facile. Ma chi ha seguito gli incontri in passato sa che c'è stato uno storico economico, ci sono state due storiche dell'età moderna, tout court, due storici del diritto, e oggi invece abbiamo un geografo storico, che poi magari... Non so, ci spiegherà. Ecco, no, nessuno è perfetto, ok, ma ci spiegherà bene che cosa vuol dire questa cosa. Ma per noi è interessante, no? questo sguardo diverso, perché ovviamente un geografo è qualcuno che ha una sensibilità particolare nei confronti della conformazione del territorio, no? E la conformazione del territorio è effettivamente un elemento caratterizzante della storia umana nell'area alpina, perché le attività umane sono state fortemente condizionate dal dato geografico, e quindi questo è questa sensibilità agli aspetti, appunto, della forma del territorio è qualcosa che ci aiuta a capire meglio questo processo così importante. Ma dall'altro c'è un altro aspetto che io trovo affascinante, che è il modo come gli uomini e donne del passato vedevano l'ambiente nell'alterno del quale vivevano, attraverso la rappresentazione cartografica, per esempio, attraverso anche la descrizione di viaggi, perché questo ci dice qualcosa sulla mentalità, sul rapporto tra l'uomo e lo spazio, che ci dice tante cose, che ci fa vedere quanto fosse diversa in realtà, con attenzione a particolari diversi rispetto a quelli che abbiamo noi oggi. Quindi questo è un dato sicuramente rilevante e è importante da mettere in luce. Allora, Nicola oggi ci parlerà di, con questa fase, sta natura ognor verde, che poi ci spiegherà, geografia storica, patrimonio bioculturale e gestione delle risorse ambientali in area alpina tra il XVIII e il XXI secolo, e in qualche modo, insomma, il punto di vista di Nicola ci consente di chiudere idealmente questo ciclo ambiente, mercato e comunità, la cui ambizione era, come vi dicevo, di dare un po' conto della pluralità e della vivacità della ricerca storica sull'arco alpino, una ricerca storica che sta veramente dando frutti importanti dalla Slovenia fino alla Francia, ma nella quale anche la nostra regione, insomma, è decisamente attivo. Nicola lavora qui, ma come vi accorgerete subito dal suo accento, non è locale. Ecco. Trento Sud, esatto, Trento Sud, va bene. Quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie. Se posso, sto in piedi, sono abituato così, sono un po' peripatetico, i miei studenti mi odiano perché io giro tra le persone sedute mentre spiego, quindi non possono giocare con Facebook durante le mie lezioni. Cerchiamo anche di farlo un po' interattiva questi 45 minuti e passeremo insieme magari. E innanzitutto però ringrazio naturalmente la biblioteca per l'invito, il collega per aver organizzato e naturalmente il pubblico presente. Ora il titolo, sì, forse era un po' respingente anche, ma l'avete riconosciuto, vero? Stannatura ognor verde. No? No? No? Nessuno? Io pensavo... È un passaggio di una poesia che però forse a scuola si fa. Sì. La ginestra di Leopardi. Vi ricordate la ginestra di Leopardi? Anche un po' la visione, no, della natura leopardiana, matrigna. E poi c'è questa poesia, bellissima, assolutamente, in cui c'è questa pianta che sta sul Vesuvio. Passaggi meraviglioso, dorata ginestra, contenta dei deserti, fa un ritorno strano, pardon. E poi in un certo passaggio lui dà corpo a questa sua visione, appunto, della natura come qualcosa di esterno all'essere umano, e che in qualche maniera si mantiene imperituro e senza cambiare, mentre invece le vicende degli esseri umani e delle persone scorrono con le loro sventure, con le loro disgrazie, cagiano i regni, passano gente e linguaggi, quindi la storia del suo decorso, cambiano le battaglie, ma in tutto questo la ginestra all'eternità sta ognor verde, la natura ha una sua storia che è totalmente indipendente da quella umana. L'essere umano si arroga l'eternità e il vanto, ma in realtà è caduco e venemenziale, e invece la natura trionfa. Ora, non per criticare il poeta, assolutamente, però questa visione della natura come qualcosa totalmente esterna all'essere umano, che ha un tempo un po' brodeliano, direi io, un tempo lungo di fronte invece al tempo breve dell'essere umano, ecco, è quello che vorrei cercare di smontare un po' oggi con voi. Ora, ripeto, nessuno vuol criticare Leopardi, era un poeta, non era un geografo, non era assolutamente un botanico, però il presupposto da cui vorrei partire io è diverso, ecco. Quello che è il basamento del mio lavoro epistemologico è che in realtà gli habitat, i paesaggi, tutti gli habitat e i paesaggi, dai boschi cedui ai pascoli, alberati alpini, alle grandi foreste di conifere delle valli interne, sono per lo più il prodotto di attività umana, di attività produttive del passato, storiche, e che hanno una storia breve anche loro, che si intreccia e che è impossibile comprendere se non si tiene conto di queste attività produttive. Voi avete ascoltato, avete partecipato, ci sono stati dei seminari relativi a attività economiche produttive, a sistemi di proprietà e possesso delle risorse. Ecco, tutti questi hanno avuto effetti non solo a livello sociale, ma anche a livello ambientale. Quindi ecco, l'idea è questa, che boschi, pascoli, prati sono considerabili come manufatti, né più né meno che un Colosseo, perché anche questi sono il risultato di attività produttive, di saperi locali, di forme di proprietà di accesso alle risorse che li hanno condizionati nel corso del tempo. E quindi sono espressioni da epoche storiche e per questo possono essere considerate a loro volta, sì, di condizioni ambientali naturalmente, ma anche di questi fattori di origine sociale antropica, e per questo possono essere considerate in qualche maniera come una forma di patrimonio, ed esiste una definizione data dall'UNESCO che è quello di biocultural heritage, che suona un po' meglio rispetto a patrimonio bioculturale, che è la traduzione in italiano, e che sono ricostruibili, essendo pratiche storiche, utilizzando fonti documentarie, fonti storiche, cartografie, fonti testuali, iconografie, che ci consentono di studiare, sì, queste forme di accesso, queste pratiche produttive, questi sistemi economici, ma anche i loro effetti ambientali. Quindi la sfida è quella della geografia storica. Studiamo il paesaggio e l'ambiente a partire dalle fonti storiche e documentari, cerchiamo di capire le strutture sociali dell'epoca partendo attraverso il paesaggio e attraverso l'ambiente che sono stati prodotti da quelli. E poi questo ha anche in realtà un afflato, una vocazione che vorrebbe essere applicativa, perché poi investe direttamente quelle che sono le politiche di gestione ambientale e territoriale, ma questo poi lo vedremo in fondo. Questo, ripeto, è uno dei cardini di uno dei progetti che ha citato il collega primo, Bridging Geography History of Woodlands, che è un progetto PRIN 2022, da cui ci muoviamo in questa direzione studiando un contesto specifico in maniera particolare, che è la Val di Fiemme e la Val di Cembra, che sono, non sono area altoatesina, però sono vicino al confine e toccano direttamente anche quello che è la gestione del territorio nell'area della bassa provincia di Bolzano, che è anche il tema che ho scelto oggi di trattare per questa presentazione, tenendo conto che per secoli tutto il sistema della provincia autonoma di Bolzano, attuale provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, sono state interconnesse e legate da un'attività a lungo, medio e breve raggio che è la transumanza, o al peggio o monticazione, ognuno con le sue differenze, ma intendendo comunque in generale quella pratica di movimento stagionale di flussi animali che serviva per una produzione verticale, no, che permetteva di sfruttare in maniera razionale e intelligente quelle che sono le risorse foraggere della parte bassa durante l'inverno e della parte alta durante l'estate, no? E questa pratica non sopravvive a stento ancora oggi, in realtà ha connotato il contesto locale per secoli, con una lunga storia, e ha unito anche territori diversi e distinti. In particolar modo c'è un forte legame storico tra quello che è l'area della Val di Fiemme, e della Val di Cembra e della Guarà in generale, e quello che è l'area della Egna, ora Neomarca, ora perdonatemi se ogni tanto il toponimo non tedesco mi sfugge, ma come ha detto il collega non sono prettamente locale, però nel PowerPoint li ho scritti bene, assolutamente. Questo per secoli è testato, no? È dimostrato. Ci sono stati flussi di movimento di animali che univano i pascoli alti, le stazioni prative erbacee di quota ai fondovalle, e quando questo vincolo si è rotto ha comportato trasformazioni sociali ed economiche, ma anche a livello paesaggistico e ambientale. In particolar modo, per esempio, innanzitutto una grande traslazione, e che a volte ora c'è difficile anche pensare, perché il formaggio noto ora, quello di Fiemme, Puzzone di Moena, è un latte mucchino, no? Un latte bovino. Per tutto il 600, 700, il 300, gli animali che si muovono sono pecore, sono greggi, che si muovono verso la valle dell'Adige e poi ritornano. Poi nel 700 succede una cosa che cambia un po' il sistema, si rompe il vincolo. Anche la Val di Fiemme è costretta a cambiare, a convertire la sua economia, e allora le pecore diventano mucche, l'allevamento diventa più stanziale, poi successivamente stabulare, e cambia quindi gli ecosistemi che erano stati prodotti da questo sistema economico. E cos'è che cambia? Questo si vede abbastanza bene in cartografia, perché tutta la Valle dell'Adige, no, è sempre stata storicamente connotata da un paesaggio ben specifico, che è una valle alpina con un corso d'acqua a carattere torrentizio, perché come in tutti i contesti alpini, quando si sciolgono i ghiacciai a primavera o quando piove tanto in autunno, il fiume si gonfia. Non era un fiume arginato, no, l'Adige, fino a non troppo tempo fa, era un fiume un po' come ci vediamo ora il Rio dell'Amazzoni, no? Con tanti rami, con tanti bracci, ci dobbiamo immaginare l'Adige com'era in quel periodo, e questo comportava anche che la bassa valle dell'Adige fosse completamente coperta per lo più da aree umide e paludi stagionali, ma naturalmente qualcosa che rendeva estremamente difficile, estremamente complesso investimenti, anche non conveniente investimenti intensivi come, come l'allevamento della vite o l'allevamento degli alberi di mele. Questo si vede molto bene in cartografia, no? Qua abbiamo una rappresentazione settecentesca che va da Newmark fino a Carter, un'altra rappresentazione, questa è una rappresentazione, la carta dell'Anic, l'Atlas Tirolensis, estremamente famoso. Questa è una carta che venne realizzata proprio per progettare da parte degli Asburgo la regimazione del corso d'acqua. Si vedono tutti i meandri, si vede come l'area intorno al fiume fosse area umida, oppure questa parte che vedete verde, che sono prati irrigui, prati umidi, e quindi anche in questo caso una forma di stagionale di alluvione, che rendeva estremamente difficile le pratiche agricole, ma estremamente conveniente l'utilizzo per il pascolo da parte degli animali durante l'inverno. E quindi c'era una gestione intelligente, razionale, per cui le aree ripuare accanto ai fiumi erano destinate all'allevamento delle pecore. Questo, fine Settecento, si interrompe. Questo è il catasto fondiario austriaco, non si vede benissimo l'immagine, scusate, ma la scala lo rendeva difficile, però si vede benissimo, siamo a metà Ottocento, che l'area verde è molto diminuita, si vede invece molto l'area gialla, l'area ocra, viene messa a cultura, è stato regimato, non ci sono più queste esondazioni temporanee, cambia l'ecosistema, cambia anche allora la razionalità economica e la convenienza delle pecore e degli animali tenuti al pascolo, e lì scoppiano i conflitti. C'è un intervento di regolazione, cambia il territorio, cambia anche il sistema economico legato al territorio, perché questo rapporto lungo, no, tra Fiemme e la Valle dell'Adige si può far risalire al XII-XIII secolo. Ci sono i documenti. Vescovo di Trento, 1257, concede ai fiemmazzi, agli abitanti della magnifica comunità di Fiemme, ottenne il diritto di pascolare a Caltern, vicino, nelle paludi di Caltern. E questi sono diritti che poi vengono continuamente rinnovati da diverse autorità, perché poi nel momento in cui l'autorità rinnova, allora legittima se stessa, no? È tutto un gioco nell'antico regime da questo punto di vista. E allora nel 1329 il re Enrico di Boemia e conte del Tirolo conferma il diritto, questi documenti vengono dall'archivio della magnifica comunità di Fiemme, no? Concede nuovamente a Fiemmazzi il diritto di pascolare a Neumarkt. Poi nel 1438 l'arciduca Federico di Austria concede nuovamente a Fiemmazzi il diritto di pascolare a Auer, eccetera eccetera. Questo è conveniente anche per le comunità della valle, della bassa valle, perché possono, poi hanno contratti di affitto, hanno un ritorno economico importante. Questa cosa inizia a rompersi appunto nel Settecento, perché nel momento in cui si fa la regimazione dell'Adige, allora conviene piantare altre cose, magari iniziare a coltivare la vite, magari a coltivare il gelso, c'è un'economia in espansione che è quella della seta, e quindi non è più così conveniente ospitare le pecore che danneggiano le piante, mangiano, si vede ora, no? Come ogni tanto esce sul giornale qualche agricoltore che protesta perché c'è un transumante che ancora si azzarda a farlo fisicamente, di solito sulle piste ciclabili, e allora scoppia un conflitto, e questo poi si ritrova anche questo nei documenti. Nel 1724 scoppia un putiferio internazionale, perché a Caltern si sequestrano 3 pecore di Fiemme. Deve intervenire il vescovo, il principe vescovo di Trento, per appianare questa cosa. Nel libro dei conti della comunità ce lo scrivono: abbiamo dovuto pagare, mandare una persona e pagare tot per riscattare quegli animali che ci hanno sequestrato gli abitanti locali, no? È un problema di gestione delle risorse, del suolo. Il suolo è poco nelle valli alpine, sempre, e ci sono logiche diverse che si intrecciano, e una delle logiche, quella economica, che piano piano diventa quella meno importante. Si fa un trattato internazionale, un accordo per una divisione tra i terreni che poi devono essere messi, lasciati al pascolo, e quelli che devono essere messi a coltura. Quelli invece che Auer devono essere lasciati per il passaggio delle bestie dal 24 marzo al 4 di maggio, scusate, qui mi è saltata la scritta. È una cosa studiata, regolata, che mostra la difficoltà di gestione di questi flussi e come vanno progressivamente scomparendo. Appunto perché la bassa valle viene destinata ad altre, la valle dell'Adige viene destinata ad altre cose. Poi appunto la transumanza, naturalmente, in maniera sempre più marginale prosegue, si attesta ancora a inizio XX secolo, assolutamente. Però quello che cambia naturalmente è il paesaggio, è l'ambiente della bassa valle, della valle dell'Adige, no? E ora cosa è rimasto di quel paesaggio lì? Del paesaggio delle aree umide e delle paludi? Questa è un po' mossa perché l'ho fatta 2 ore fa, mentre venivo in treno. Mi è venuto in mente lì mentre passavo, ho detto, vabbò. Cosa si vede sul treno da Trento fino a Bolzano? Vigneti e frutteti, c'è una grande monocultura, un grande agroecosistema, perdito d'occhio bellissimo, assolutamente, è bellissimo camminare sotto la pergola trentina, siamo tutti d'accordo. Sicuramente qualcosa di estremamente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato e abbiamo visto in quelle cartografie. Qualcosa è rimasto in realtà, e si vede per esempio certe aree che sono boschive, ma erano anche pascolate. Anche queste sono attestate nei documenti della magnifica comunità di Fiemme. Ci sono delle carte, per esempio, che ce le fanno vedere: il bosco camerale al lago di Monticle, poco sopra, no, il lago di Caltern, un bosco che viene utilizzato anche per il pascolo. E poi dice per cosa si veniva utilizzato questo bosco: per produrre travi, per produrre remi, per produrre stanghe da viti, perché il motivo per cui si usa in Trentino la pergola trentina è perché c'è tanto legno, perché in qualsiasi altro contesto tutto questo legno da sostituire, perché piano piano marcisce, non si sarebbe potuto permettere nella pianura padana una cosa del genere. C'è una grande disponibilità di risorsa ambientale. Questo, scusate, questo mi è venuto un po' male, ma quest'altra carta, sempre dall'archivio di Fiemme, è molto bella, mostra questi tre boschi che vengono concessi in uso a quelli di Fiemme per pascolare con una volta le pecore, e poi si descrivono: bosco camerale piantato di rovetti, olmi, frassino, bosco piantato di pino e rovetti, e qui, che è qui abbastanza vicino direi, dall'altra parte, bosco camerale piantato di pino e foiari. Innanzitutto porto questa attenzione, c'è scritto piantato, come se fosse coltivato, né più né meno di un vigneto. E in secondo luogo riporta le essenze, per esempio, il tipo di alberi che erano presenti. E questo si può fare anche una comparazione attuale, sono divertito a farlo, con la carta dei tipi forestali della provincia autonoma di Trento, è già tutto cambiato. Quello che era il bosco camerale di pino e foiare è diventato un querceto di rovere, dove c'è sì qualche frassino, ma soprattutto è una querceta. Anche in questo caso il pino è praticamente scomparso, c'è qualche lacerto di pineta antica, ma praticamente non se ne trova più. Qua invece è già più, si presenta quasi come doveva presentarsi una volta. Ecco, in questo caso noi possiamo vedere come è cambiato l'ecosistema, come sono cambiati gli alberi, l'essenza arborea che popolavano quella determinata area in tre secoli, quello che è un lacerto del passato e quello che invece è il risultato di dinamiche più recenti, anche tenendo conto che più o meno nella Valle dell'Adige tutti i boschi sono stati tagliati durante la Prima Guerra Mondiale completamente, quindi qualsiasi cosa sicuramente è posteriore. E abbiamo già, allora, qualche identificazione di questi resti del passato. Naturalmente per la Bassa Valle, per l'Adige, che è un'area estremamente urbanizzata, con un'agricoltura estremamente intensiva, cercare di identificare qualcosa che può essere un paesaggio, che può essere il resto di un contesto storico, è difficile. È più facile sui rilievi, questo sì, e quindi vi invito a spostarvi con me dalla valle al monte e spostarci in particolar modo su quello che è il Dossone di Cembra, cioè quel rilievo montuoso che divide Salorno dalla Val di Cembra, da Valda in particolar modo, questa areale qui, e anche in questo caso di riscontri della presenza di transumanza della stazione di sosta di queste pecore, no? Che dalla bassa valle, che dalla valle si muovono verso i lagorai, ci sono e si attestano. Ci sono sul terreno, questo è un resto di un ricovero pastorale, questo si vede benissimo, ipotesi. Una fossa nel terreno ricoperta di pietre all'interno. Ipotesi? No, non è un'area. Sì, non è area per la produzione, però ottima proposta, ci ho pensato anch'io, ma in realtà no. La geomorfologia non ce l'ho. È una trappola per lupi, è una fossa lupara, una delle poche che sono state identificate. E la presenza di una fossa da lupi, cosa attesta? Un'area di stazionamento dei pascoli, perché la fossa da lupo si fa per proteggere il greggio, si fa certo in mezzo al bosco a farlo, cioè il lupo sta benissimo in mezzo al bosco, non è un'attestazione, no? di un utilizzo intensivo, se uno va a costruire questa cosa, pastorale. Si vede nei documenti, questo per esempio è una delle regole della magnifica, è un passaggio delle regole della magnifica comunità di Cembre, che dice che in quest'area, sul Dossone di Cembre, guastare cinesari, faggi e altra sorte d'arbori destinati sopra comune e marizzi per beneficio del gregge. Ora, marizzi, cosa vuol dire? Io giuro, su questa cosa mi ci sono veramente spaccato la testa. Cioè, un tipo di pianta, forse un nome locale, non... ci abbiamo studiato, sono andato a cercare Alessandro Parenti, il filologo, abbiamo trovato un dizionario settecentesco. Marizzi viene da Meriggiare, altro riferimento culturale, Meriggiare, pali d'assorto. Però chi Meriggia? Meriggiare era il termine con cui si designava, o meglio, Merizzi, Marizzi, Marenze, dipende, gli alberi sotto cui le pecore andavano a riposare quando c'era il sole a picco a mezzogiorno. Cioè, pensate che bello, c'è una parola che identifica un albero che ha questa funzione. Sappiamo tutti quella storia che gli eschimesi hanno 100 parole per definire, non è vera, però vabbè, ci piace pensarla. Una volta c'erano tante parole per definire le risorse ambientali e l'uso che se ne faceva, poi ce ne siamo dimenticati. Già ci attesta, se c'è una parola per definire questo, ci attesta l'uso quotidiano che se ne faceva. Quindi ecco, la documentazione documentaria o di terreno che attesta quest'uso pastorale dell'area è tantissimo. Questo è un po' uno dei metodi anche della geografia storica, ci muoviamo fra documenti, ma anche sul terreno, se possibile, attraverso un uso integrato di queste fonti. Quindi abbiamo un dossier di Cembra utilizzato per questo scopo di paesaggio agrosilvo-pastorale, e questo lascia naturalmente effetti anche sull'uso del suolo, sull'uso della copertura del suolo, che possono essere ricostruiti procedendo regressivamente, utilizzando a questo proposito fonti cartografiche. Quello che vedete è una ricostruzione digitale fatta attraverso i sistemi informativi geografici, citava il collega precedentemente, che mostra come è cambiato l'uso del suolo dal catasto franceschino di metà 800 fino all'epoca più o meno contemporanea, ecco, giusto nel 2006 nello specifico, per cui quello che ora è una copertura boschiva ininterrotta, per lo più di abete rosso, si vede nel 1936, secondo la carta forestale del Regno d'Italia, come fosse molto più aperto, si vede nel 1857 come in realtà il bosco trovasse, lasciasse spazio a questi prati e pascoli alberati che seguivano il crinale, che altro non erano se non i corridoi erbacei che permettevano il passaggio delle greggi transumanti. E di cui ci rimane qualche lacerto anche in questo caso, questi prati e pascoli alberati di larice, perché l'arice è una conifera che d'inverno perde, l'unica conifera che d'inverno perde gli aghi, perde le foglie. Ha un ombrello fogliare molto ridotto rispetto all'abete e quindi favorisce la crescita della cotica erbosa. Il risultato qual è? Che il proprietario ha l'erba per il pascolo e il legno per tutti quegli usi che abbiamo visto, le stanghe delle vigne, remi, eccetera, eccetera, è un all-in, si direbbe ora, no? Si vince assolutamente su tutto. Era un paesaggio, un sistema, un habitat boschivo che aveva il suo senso e che piano piano è stato soppiantato da questa invasione dell'abete rosso, anche di origine antropica, perché poi a partire dagli anni 50 si pianta abete rosso, perché l'abete rosso ora ha un valore commerciale più importante, no? È per cui, per questo che viene. E di cui rimane qualche resto, di cui si vede le piante di larice più vecchie, il cosiddetto infilling, cioè la crescita di quelle nuove più recenti, nel momento in cui non si gestisce più questo pascolo, i laghetti, il sistema di canalizzazione, esistente una volta, sempre come risorsa idrica per l'allevamento, poi soppiantata appunto da un paesaggio e da un ambiente completamente nuovo nel momento in cui è scomparso il sistema produttivo che aveva portato a questo ecosistema. Tra l'altro questo si vede benissimo, questo paesaggio, in questo documento, secondo me bellissimo, è un capreo confinario tra la comunità di Salorno, che è qua, il distretto di Valda e comunque le comunità, diciamo, della Val di Cembra. È un confine praticamente internazionale, no, in questo momento, cioè tra il Principato Vescovile e la Contea del Tirolo. Viene realizzato questo Cabrea, appunto, confinale. Non sappiamo nemmeno bene perché non, da documentazione allegata non, è scomparsa, non si trova più, però è rimasto il Cabreo. Si vedono gli elementi che vengono utilizzati per definire il confine. Questo esiste ancora, Potsmar, per esempio. Si vede soprattutto questo paesaggio da cui prende origine, questo che vediamo ora. C'è un sistema di pascoli e prati aperto con alberi abbastanza radi, distinti tra faggi e larici, che era un paesaggio agrosilvopastorale, ad oggi completamente scomparso. Si vede anche un'altra cosa, voi forse trovate troppo lontani, si vede qui, non so se ci legge, c'è scritto Lovara, è un'altra fossa lupara, tra l'altro, che viene registrata perché estremamente vicina al confine, no? Quindi serve come elemento identificativo per tracciare la linea. Tra l'altro si dice sempre, no, che, perlomeno noi ora siamo abituati a pensare che il confine è un confine fra due enti amministrativi, di dove passa in ambiente montano. Uno penserebbe dal crinale, no? La scelta più logica. No, il confine non è mai passato dal crinale. Il crinale è qua. Il confine passava sotto prima, perché la sommità è un'unità produttiva, è un contesto di risorse erbacee dove passano i greggi transumanti, e quindi la comunità più forte se lo prende tutto. Il confine naturale, il crinale, lo diviene quando, nel fine 800-900, quando l'economia della pastorizia non ha più quel valore, e allora prevalgono altre logiche come quella militare, e allora si fa passare il confine dal crinale perché è più difendibile, funziona meglio. Ma una volta, no, il confine passava sotto e condizionava invece un contesto paesaggistico, ambientale diverso. Ora, questo che vi ho fatto vedere è un modo, un utilizzo di fonti integrato, si dice, cioè si combinano appunto fonti di terreno, fonti documentarie, cartografie, rappresentazioni GIS per la mappatura, che ci consente di identificare questi habitat, questi ecosistemi, questi paesaggi che erano legati ad attività produttive del passato, quello di cui vi dicevo all'inizio, no? E che pertanto hanno anche un valore storico, in qualche modo. Questa cosa è stata riconosciuta, anche a livello internazionale. L'UNESCO, per esempio, l'UNESCO sempre, associamo all'UNESCO il concetto di patrimonio, di paesaggi culturali, no? Un paesaggio culturale qua è l'espressione della capacità dell'essere umano di trasformare la natura, però obiettivamente in contesto alpino c'è qualcosa che non è stato trasformato dall'essere umano. Esiste qualcosa di naturale al momento nel contesto alpino? No. Secoli di transumanza, già quello, no? Ha condizionato tutto, e ve l'ho fatto vedere come è cambiato un ecosistema. Quindi paesaggio culturale è quasi ridondante, cioè paesaggio è culturale necessariamente. La stessa UNESCO prende atto di questa cosa e nel 2014 ha creato una nuova categoria patrimoniale, il Biocultural Heritage, cioè il patrimonio bioculturale, suona malissimo. Cos'è il patrimonio bioculturale? È l'unione tra pratiche e paesaggio, attività agricole, pastorali, qui parla anche di pesca, tradizionali, che hanno creato paesaggi, hanno creato ecosistemi, e l'idea che sia impossibile salvaguardare quei paesaggi, quegli ecosistemi, senza salvaguardare anche quelle pratiche che ne stanno alla base, e per cui e che li hanno storicamente creati. E qui l'importanza di cercare di identificare le esternalità positive di quelle pratiche, che possono avere anche effetti positivi a livello ambientale. Ora siamo nell'età dell'antropocene e siamo abituati a pensare che l'attività umana sia fondamentalmente dannosa per l'ambiente. c'è una visione degradazionista dell'attività umana. E questo sì, al momento attuale direi abbastanza vero, però alle spalle abbiamo 2.000-2.500 almeno di utilizzo massivo di pratiche umane che hanno anche favorito la biodiversità, che hanno favorito la rigenerazione delle risorse, che hanno avuto effetti positivi a livello ambientale e di cui l'UNESCO ci chiede di rintracciare quelle pratiche e gli effetti che hanno avuto. Questo si fa a livello internazionale, si fa anche a livello, c'è una categoria anche a livello nazionale, esiste un registro nazionale dei paesaggi rurali storici che è stato varato dal Ministero dell'Agricoltura nel 2012, che cerca di registrare e mappare questo tipo di paesaggi, è possibile presentare candidature in questo senso. Ma questo, al di là poi del riconoscimento del patrimonio, la domanda è: ma tutto questo può avere, bellissimo, siamo capaci di ricostruire com'era quell'ecosistema 300 anni fa, ma questo ha anche un'utilità, perdonatemi se sono programmatico, può avere un'utilità effettiva nella gestione di queste risorse, di questi paesaggi attuali? Io spero di sì, altrimenti non farei questo lavoro. Ecco, questo lo chiede anche la ricerca forestale, per esempio, le scienze forestali attuali. Qual è l'importanza dei sistemi passati di gestione, proprietà e gestione della terra e come possono aiutare ora a gestire la biodiversità e le interazioni biotiche? Ecco, per esempio, quello che vi ho fatto vedere per il Dossone di Cembra, questo paesaggio boschivo molto più aperto, molto più rado, con questi alberi, con il Lage, per esempio. Qui questa è un'altra rappresentazione per l'area di Paneveggio. Avete presente ora Paneveggio? La foresta dei violini, no? È una pecceta di abete rosso monospecifica, estremamente fitta, a copertura, che è stata estremamente danneggiata da vaia, no? Naturalmente, praticamente raso al suolo. Però nel fine 1808 si presentava così, cioè qualcosa di molto diverso, molto più aperto, con specie diverse, sia conifere sia latifoglie, con questa forte presenza dell'arice per i motivi che ho spiegato prima, per queste sue caratteristiche. Tra l'altro l'arice è una pianta pioniera perché, perdendo gli aghi, concima la terra, fertilizza la terra e quindi permette l'arrivo delle altre piante successivamente, permette l'arrivo dell'abete rosso che cresce più alto, cresce più veloce, lo copre con l'ombrello fogliare e gli toglie la luce. Il larice è una pianta eliofila, senza luce muore, quindi progressivamente viene spinto via dall'abete rosso. Il fatto che una volta fosse tutta all'arice testimonia allora che qualcuno lo gestiva, che qualcuno provvedeva ad evitare che l'abete rosso, come dinamica naturale, lo soppiantasse. Pensiamo per esempio a Vaia. Dov'è che ha avuto gli effetti più disastrosi? In contesti di abetete monospecifiche, di abeti rossi e di abeti bianchi, piantati in modo ravvicinato, cresciuti in modo estremamente ravvicinato. L'abete rosso è un albero che ha un'ampia ombrello fogliare e delle radici estremamente scarse e superficiali, e quindi una tempesta, un evento estremamente vulnerabile. Tra l'altro, piantati uno accanto all'altro, ne casca uno, ricordate il domino, vengono giù tutti. Invece un contesto come quello passato, con una bassa densità di individui arborei, per esempio con il larice che ha delle radici estremamente profonde e un ombrello estremamente ridotto, beh, è qualcosa che offre una resistenza, che ha una vulnerabilità molto molto ridotta rispetto a quel contesto, a eventi estremi come quelli che possono essere le tempeste vai. Finisco solo con un ultimo accenno e poi termino. A giugno-luglio, è stata votata il Consiglio europeo la Nature Restoration Law. Non se ne è parlato tantissimo in Italia, se non per il fatto che l'Italia ha votato contro, su sollecitazione della Coldiretti, perché avevano paura che andasse a detrimento delle attività agricole. Questa è una legge che potenzialmente potrebbe andare a toccare molto della nostra quotidianità nei prossimi anni, perché sancisce il fatto che una considerevole parte del territorio dell'Unione Europea dovrebbe essere ripristinata, restoration, traduciamolo così, ripristinata, ovvero portata a una condizione ambientale, a un aumento della biodiversità, sospese delle attività agricole, da lì la paura della Coldiretti, ecco, da questo punto di vista. Ora, al momento per i primi 5 anni si prevede solo il 25% del territorio dell'Unione Europea, tenendo conto che già il 22% è coperto da Natura 2000, non sarà particolarmente impattante, però si prevede in realtà di aumentare questa cosa nel futuro. E questo perché? Perché si ritiene che limitando le attività agricole, industriali, si permette invece una rigenerazione spontanea dei contesti ambientali, un aumento della biodiversità. Però ecco, per esempio, questo termine restoration, restauro, ripristino, come storico magari uno si domanda, ma ripristino di cosa? Ripristino dei vigneti piantati nell'Ottocento, ripristino delle aree umide del Settecento, ripristino dei prati pascoli, o ripristino di quello che c'era prima, perché io mi sono fermato al Settecento, ma potevo andare indietro parecchio nel tempo. Cosa vuol dire ripristino? In realtà non vuol dire niente di tutto questo. Quando si parla di restoration si intende raggiungere determinati indicatori ambientali che di storia, di storico non hanno assolutamente niente. Anche con, è un po' quasi una legittimazione. Si tratta di creare qualcosa di nuovo che ha il suo senso a livello ambientale, assolutamente. Però non è certamente quello che c'era prima, o forse sì, ma bisogna vedere quanto prima, ecco. Questo cercavo di far vedere, cioè che ogni paesaggio ha una sua stratigrafia di momenti diversi, ognuno corrisponde a un determinato, una determinata struttura socio-economica ed ecologica, e questo creerà creerà un ennesimo strato. Quindi poi non trovo niente di particolarmente negativo, no, nel cercare di promuovere la biodiversità e gli effetti ambientali positivi. È vero che come interpretazione, che gli usi agricoli, qualsiasi attività umana è considerata come un disturbo, un'esternalità negativa. Mentre invece, ho cercato di far vedere che forse per secoli certe attività, certi saperi locali, certe forme di possesso possono aver avuto effetti positivi. Quindi, ecco, l'auspicio finale è che questo tipo di ricerche possa considerare a pensare che anche una gestione antropica, storica, approfondita con il tempo, possa aiutare a questi paesaggi rurali storici possono considerare forme di gestione diverse, che non siano semplicemente recintare, ma anche promuovere biodiversità attraverso pratiche agricole. E con questo io vi ringrazio della vostra, tornando alla ginestra, vi ringrazio della vostra attenzione. Bene, grazie mille Nicola per questa bella presentazione. È la cosa che mi affascina sempre quando ti sento parlare, appunto, questo utilizzo plurale delle fonti, no, per ricostruire la realtà storica. Noi storici siamo abituati a chiuderci in archivio, guardiamo le carte, leggiamo libri, facciamo queste cose. Invece chi lavora come Nicola può fare rilievi sul territorio, andare a vedere le lupare, dove stanno le lupare, andare a consultare il materiale cartografico. E questo consente appunto di avere degli sguardi diversi sulla storia del territorio. Allora, prima di passare il microfono al pubblico per le domande, avrei una domanda da farti, che è proprio in relazione all'ultima cosa che hai detto, perché prima di tutto il discorso avevo in testa questa cosa della Restoration Law, no? Europea. Allora qui uno lo guarda e gli viene in mente, beh, La restoration ultima che possiamo fare è quella alla fine dell'ultima glaciazione, 11.700-11.800 anni fa, perché prima c'era il ghiaccio, no? Poi dopo c'è stato quello. E però da quel momento in poi il paesaggio è cambiato continuamente proprio sulla base dell'interazione che dicevi tu. Ora, è immaginabile una realtà in cui c'è un contesto naturale che viene gestito esclusivamente con una logica di astratta, chiamiamola di mantenimento della biodiversità, senza che ci sia un'interazione con le attività umane? Perché io ragionando da economista dico, se fosse soltanto per una questione di costi e di incentivi per investire su una cosa di questo genere, mi sembra sostanzialmente un'utopia. E poi è vero che l'Unione Europea furbescamente ha fatto come ha fatto in molti altri casi, ha detto, beh, intanto interveniamo su questo, poi nel lungo periodo si allargherà la cosa, dove lungo periodo significa che vediamo come vanno le cose, vediamo se si riesce a farla passare, questa cosa qua, poi in caso no, la toglieremo, come succederà con i motori termici, no? Che dovrebbero essere eliminati nel 2035, ma sicuramente non sarà così, perché già si comincia a cambiare idea. Ecco. Questa non è una domanda, questa è la domanda. Io credo, ma mi sembra abbastanza evidente, che le politiche di rinaturalizzazione e gestione dei contesti ambientali, sì, anche quelle europee, trovino tutte una radice comune in un approccio statunitense. Anche la storia ambientale, per lo più. Un contesto statunitense che è estremamente diverso da quello europeo, dove sì, effettivamente si può forse parlare, lo dico da ignorante, non l'ho mai studiato, ma forse si può parlare di contesti naturali dove le dimensioni sono diverse, dove l'impatto antropico è stato diverso, dove ci si concentra molto su quelli che sono gli ultimi secoli di colonizzazione, la frontiera, e quindi dove effettivamente l'attività antropica recente è stata aggressiva verso l'ambiente, diverso naturalmente la fase precolombiana, ma anche lì bisogna capire quale, perché l'idea che abbiamo noi degli Apache che cavalcano sul cavallo nelle praterie, ma il cavallo è arrivato dall'Europa, quindi c'è pure quello, non andrebbe storicizzata, nelle pianure del grande spirito il cavallo non c'era fino a un certo punto, quindi certo che quel portato ha influenzato anche molto il contesto europeo, per cui il concetto di parco naturale come qualcosa che si recinta è stato adottato anche da noi. In Italia è un territorio fragile, con dei vulnera territoriali importanti che ogni spesso ormai si fanno sentire. E le politiche di rinaturalizzazione in molti contesti, non dico in tutti, hanno dimostrato empiricamente che non funzionano. La Liguria, che era completamente pascolata fino a fine 800 ed è stata completamente rimboschita dal servizio foreste dell'esercito sabaudo prima e poi da quello del Regno d'Italia, ogni volta che piove viene giù tutto, sempre. In quel caso il bosco non gestito ha aumentato forse la vulnerabilità rispetto a un prato pascolo alberato come poteva essere precedentemente. Allora la soluzione qual è? In realtà non partire da idee preconcette, ma andare a vedere fisicamente, localizzato, qual è stata la dinamica ed eventualmente se tornare indietro può avere un senso oppure no. Certo che le attività antropiche gestivano, che producevano quei paesaggi, molto al momento sono per lo più antieconomiche, e questo non volevo portare avanti nessun discorso nostalgico, cioè fare la transumanza dell'arpeggio nell'Ottocento è un'esperienza terrificante che io non auguro a nessuno di riproporre attualmente, infatti per lo più viene portata avanti da persone immigrate, abituate a contesti diversi. Quindi come fare a rendere economico e contabilizzare anche le esternalità positive, i servizi ecosistemici di determinate, quello non lo so, è un problema. Con alcune produzioni si tenta di fare rincarando il prodotto, i vigneti storici. Si dà un marchio di storicità se riconosce un valore culturale oltre a quello olfattivo e si pagano di più. Però lì allora si demanda al consumatore, non lo so, non è una domanda difficile. Sì, sì. Sarò del tutto scollegata rispetto all'argomento che lei con pazienza ha presentato e con dovizia di particolari, ma io faccio fatica a, come dire, ogni volta che sento, non so, l'intervento dell'economia nei confronti della natura, ho sempre molto così, non dico paura, ma insomma sospetto molto, perché penso che l'attività antropica abbia finora anche contribuito a non aiutare a crescere i boschi, le foreste. L'altra sera vedevo in televisione quello che sta succedendo in Romania, nei Carpazi, quello che l'uomo e le leggi dell'economia in quel territorio stanno provocando. E questo ha delle ripercussioni enormi, e anche per quello che succederà anche a livello climatico. E quindi io ho sempre molta perplessità, nutro sempre molta diffidenza nei confronti dell'attività antropica quando si parla di boschi e di foreste, perché noi siamo la specie che è arrivata dopo gli alberi. E dovremmo noi avere rispetto delle creature che sono venute prima di noi. Noi stiamo cambiando radicalmente, abbiamo sempre cambiato i paesaggi, abbiamo sempre modificato tutto, a volte in positivo, ma a me sembra che ultimamente prevalga solo una legge, quella del profitto e quella dello sfruttamento delle risorse naturali. Ecco. Scusate, probabilmente è molto peregrino questo intervento, ma si parla di ambiente, si parla di attività antropica, e quindi ecco, volevo fare questo appunto. Grazie. Io se posso, per larga parte sono completamente d'accordo con lei. Quello di cui parla, no, è uno sovrasfruttamento intensivo delle risorse ambientali. Che connota obiettivamente la nostra epoca. C'è un dibattito ora all'interno delle scienze sociali, la definiamo antropocene, cioè l'età dell'uomo, e qualcuno ha detto no, definiamolo, non riuscirò a pronunciarlo, capitalistocene, non l'età dell'essere umano, l'età del capitalismo, perché poi è da lì che viene il dal sistema economico che viene il sovrasfruttamento senza limiti delle risorse. Questo ci è stato ampiamente dimostrato già dai rapporti Meadows-Brundtland da anni. La sfida, appunto, allora forse è pensare una gestione diversa, che non sia quello che ha detto lei, con tutte le problematiche. Finché continuiamo a contabilizzare la ricchezza di un paese col PIL, è chiaro che c'è un bosco e sta lì fermo, PIL zero. Viene giù tutto per vaia, PIL a 1000, cioè, quindi è chiaro che conviene la seconda cosa. Ma questa gestione ambientale si può fare anche attraverso attività produttive, sostenibili? Secondo me in parte sì, perché la storia l'ha dimostrato comunque per secoli. La convenienza dell'essere umano era quella di consentire la rigenerazione delle risorse, no? L'abitante di Fiemme, l'abitante della montagna alpina, non aveva convenienza che scomparisse il bosco, aveva convenienza ad usarlo e permetterne contestualmente la rigenerazione, in modo che fosse sostenibile. Non si usava questo termine all'epoca, ma il concetto è quello, che fosse sostenibile. Allora si può imparare qualcosa dal passato in forma di gestione sostenibile di certi ecosistemi? forse, perché poi si pone il problema economico, anche che poi deve essere produttiva. È possibile una gestione diversa dallo sfruttamento intensivo e da semplicemente recintare e non toccare? Ci stiamo provando. Assolutamente. No. Sì, se posso aggiungere una cosa su questo, questo è un argomento molto complesso e difficile ovviamente, però un'osservazione che si può fare è che noi non dobbiamo considerare l'attività economica come qualcosa che mira esclusivamente al profitto ed è totalmente staccata dal resto dell'attività sociale, no? Perché si intreccia poi con gli altri valori che ci sono, no? Cioè noi non possiamo separare il fatto economico dal fatto estetico, dai valori morali, eccetera. Quello che vediamo è che in realtà i paesi che economicamente stanno meglio ora sono anche i paesi che hanno una maggiore sensibilità ambientale e che possono permettersi anche di utilizzare delle risorse per tutelare l'ambiente in maniera diversa, no? Quindi c'è un po' una connessione tra queste due cose e qui noi dobbiamo intenderci qua la questione della conservazione dell'ambiente è una questione che ha a che fare con le risorse per garantire questa possibilità e deve tener conto delle esigenze delle comunità che vivono su quel territorio, perché molto spesso il punto di vista è il punto di vista di chi vive nelle città e usa l'ambiente montano come luogo di escursioni, per le vacanze, eccetera. Ma chi vive sul territorio e presidia il territorio, svolgendo anche dei servizi a favore dell'ambiente, per il mantenimento di quella realtà lì, e avendo il diritto di stare lì per ragioni storiche, no? Ecco, ha bisogno di poter esercitare delle attività. Allora bisogna trovare un equilibrio fra queste due cose, no? La possibilità di garantire una qualità ambientale elevata, che costa, e la possibilità di garantire anche la vita delle persone che vivono su quel territorio. E trovare un equilibrio, oggi c'è un grande dibattito intorno a questa cosa, no? Come si riescono a fare queste cose. Pensiamo solo al dibattito sui grandi carnivori, no? Allora, certo, il nostro istinto è quello, ah sì, gli orsi, i lupi, bellissimi animali, che bello che siano tornati, eccetera. Però, allora, il pastore che vive al margine della sua possibilità reddituale, perché prendono un reddito molto basso, e si trova le pecore sbranate dal lupo, chiaramente dopo un po' dice non resto più qua, me ne vado, il pascolo viene coperto dal bosco, cambia tutto, no? Le cose cambiano. Quindi è un discorso complesso che secondo me può essere affrontato solo se si evitano le polarizzazioni, no? Cioè la considerazione solo economica o la considerazione puramente ecologica di un ecologismo un po' di maniera, no? Come quello che deriva dalla mentalità americana, dove gli spazi effettivamente solo selvaggi ci sono. Io quando avevo 16 anni sono andato a fare un trekking in Canada e mi sono reso conto che le cose erano radicalmente diverse rispetto, non c'erano sentieri, il posto più vicino dove andare se mi succedeva qualcosa era 50 chilometri, insomma non erano le Alpi, no? È un altro mondo, un'altra cosa, insomma. Quindi il trovare l'equilibrio non è facile, però è su questo che si gioca un po' la partita, no? E il discorso è diverso proprio per i paesi che si stanno sviluppando adesso, perché è lì effettivamente il problema grosso, no? Lei citava il caso della Romania, ma la situazione è molto peggiore in alcune aree della Cina, per esempio, no? Dove la Cina, che sta rincorrendo la propria crescita economica, sfrutta le risorse con tutta un'altra logica. Ed è quello che è successo anche in Unione Sovietica in passato, dove intere aree sono state sfruttate a fondo per, in una logica di convergenza economica verso i paesi più sviluppati, dove non si teneva conto di nient'altro. Adesso, pian piano... No. Poter salire, camminare e vivere la giornata tranquilli. Adesso sono in pochi anni cresciute tante case, abitazioni che hanno snaturato il paesaggio, secondo me in buona parte, e addirittura le persone che potevano prima usufruire delle Gasthöfer, come si chiamano, le trattorie del posto. Adesso non possono più farlo perché adesso ci sono gli alberghi di lusso al servizio del turismo, sempre per una logica di economia mirata al profitto di pochi, a discapito della possibilità di godere e usufruire del paesaggio di molti. Cioè i bolzanini adesso non vanno più su perché tanto devono, certi locali sono ad uso esclusivo del turismo così da fuori confine e non sono più in grado di godere della tranquillità, della possibilità di andare a passeggiare, mangiare in maniera semplice come si faceva un tempo, e le persone che stesse, i locali, quindi la fisionomia del paesaggio di una volta è cambiato, e non so se possiamo dirlo in positivo, perché le persone che vivevano prima di un semplice maso non ci sono più, cioè non possono più garantire il semplice panino al viandante, alla persona che passeggiava così con la famiglia, ma hanno ceduto i loro terreni o il loro maso a delle multinazionali del turismo e quindi favorendo flussi turistici che per carità garantiscono degli introiti notevoli, però hanno privato la popolazione limitrofa, la città, no? Del beneficio che prima dava un paese. È un esempio qui nel vicino che io sto toccando con mano, che vedo, sì. Non ci sono più i locali di un tempo. No, ma infatti questa è una grandissima questione, cioè l'Alto Adige sta risolvendo il problema dell'overtourism facendo turismo d'élite, no? Cioè riduce il numero alzando i prezzi. Ecco, questa cosa funziona bene per chi fa attività turistica. Ci sarà un problema, secondo me, di fruizione collettiva del paesaggio, del territorio, che prima o poi esploderà. Quindi questa è veramente una questione importante, no? Però anche lei diceva, la famiglia contadina che offriva il panino, quella famiglia contadina non esiste più. È cambiata, hanno altre esigenze, è diverso, è cambiato il mondo, no? E quindi noi dobbiamo tener conto che c'è un'evoluzione anche delle esigenze della popolazione che vive sul territorio, che svolge l'attività in modo diverso, no? E bisogna trovare un punto. Bisogna trovare un equilibrio. Dovremmo non è essere noi in grado di correggere il tiro, e invece noi umani stiamo continuamente perseguendo altre vie, altre strade. E non tutti gli umani uguali. Ma scusate, abbiamo un po' monopolizzato la discussione intorno a questo tema. C'è qualche altra domanda per il nostro relatore? Allora gli chiedo magari io, Nicola, secondo te qual è un ambito di ricerca ancora poi su questa connessione tra uomo ambiente in area alpina? Tu adesso hai studiato diverse cose, un ambito di ricerca nuovo sulla quale varrebbe la pena concentrarsi? C'è qualcosa che tu, studiando, hai visto che è ancora poco analizzato, che meriterebbe di essere approfondito? I laghi. Ok. A meno che qualcuno qui non mi voglia contraddire, ma la gestione dei laghi in contesto alpino e in contesto Trentino-Alto Adige non è stata mai particolarmente... Ne hanno parlato solo in una connessione con lo sfruttamento idroelettrico. Però, il caso di Raesia, no? Per esempio. Il collega a livello di gestione collettiva, di usi civici e beni comuni, è molto più esperto di me. Però tutto quel sistema di gestione complessa di diritti rispetto alla pesca, l'irrigazione, le varie risorse che poteva offrire un lago alpino, e che a loro volta ne hanno condizionato tantissimo gli ecosistemi. Io studio anche i resoconti di viaggio da parte dei viaggiatori, sono divertentissimi perché vengono fuori tante, a volte poi, bisogna sempre considerare la fonte, come è stata prodotta, magari vengono viaggiatore francese, inglese, poi tornato a casa pubblica un libro del suo resoconto di viaggio, ci aggiunge qualche commento un po' piccante o comunque che serve a attirare l'attenzione del rettore, quindi vanno sempre letti in maniera pittoresca, del pittoresco, del sublime, però a volte anche emergono elementi interessanti. Montaigne a un certo punto attraversa il Trentino, arriva a Rovereto e si arrabbia tantissimo, ma ci pianta un casino, perché non ci sono i gamberetti a cena. ora a Rovereto, certo lui viene da Innsbruck, sta scendendo in giù, non è che io sinceramente un gamberetto a Rovereto non l'avrei mangiato di mio, quelle... ma sono i gamberetti di Fiume, certo. Che no, non ci sono più, ma all'epoca sì, si commerciavano. Perché c'erano i gamberetti di Fiume e ora non ci sono più? Perché la biodiversità ittica è cambiata? Sì, perché i pescatori vogliono che la roba lì. Quello, non lo so, è un tema che a me... Ok, dai, bene, ottimo suggerimento. Grazie.